trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar, benvenuta Daniela Apollonio e benvenuto a Stefano Mizzella. Ciao Antonio, bentornato dalle tue vacanze. Ciao Antonio, grazie a tutti. Allora, oggi siamo al gran completo, si può parlare di una vera e propria triade, se non addirittura di una trimurti. L'abbiamo adottato ormai, il nostro Stefano è in pianta stabile. Vi ringrazio. No, la cosa bella è che la trasmissione stavolta l'ha preparata tutta lui. Sì, diciamolo. È il nostro esperto di Second Life, ha fatto delle indagini in questi giorni, ha messo insieme tanti contributi, gli ospiti, insomma, io ero in vacanza, non ho fatto nulla, è bellissimo, sono bellissimo. Qua ti abbiamo un po' colpito a tradimento, era un argomento che non ti allettava tanto e te lo sei trovato qui sulla ma no, scrivania. No, cioè, non si può far finta di niente, bisogna parlarne e oggi ne parleremo. Ok, provo a prendere in mano la discussione e lo faccio introducendo il primo ospite di questa ricca puntata, che è Vittorio Zambardino. Vittorio Zambardino, firma storica di Repubblica e curatore del blog Scene Digitali su Repubblica.it. Lo abbiamo in collegamento? Sì. Ecco. Buonasera, dottor Buonasera. Zambardino. No, togliamoli, dottorino. Non è un ospedale. Va bene, allora iniziamo con toni più meno formali. Sì. Io sono qui insieme ad altre persone, sì, che mi stanno facendo compagnia. Sono Antonio Pavolini e Daniela Apollonio, che sono, diciamo, i veri padroni di casa, sì, qui. E sono anche insieme a Massimo Zito, che è, diciamo, l'esperto in questo caso di Second Life, dal momento che può essere definito un vero e proprio imprenditore virtuale, che più tardi ci racconterà la sua esperienza. Allora, io volevo iniziare con la prima domanda, nel senso che appunto siamo in una fase in cui tutti parlano di Second Life, dal sociologo allo psicologo, al giornalista o al semplice fruitore, utente amatoriale, mettiamola così. E molti, la maggior parte delle persone lo fanno con toni quasi apologetici, esaltando Second Life come se si trattasse di un nuovo Eldorado. Invece lei, all'interno del suo blog, in varie occasioni ha cercato di stemperare questi facili entusiasmi proponendo in alternativa una lettura maggiormente critica e disincantata del fenomeno. Potremmo quasi dire che, giocando con la famosa dicitura di Eco, lei sia quasi un apocalittico nei confronti di Second Life? No, rifiuto. Perché questa dinamica, possiamo darci del tuo? Certo. A questa dinamica che tu hai appena descritto, che è esattamente quella tra apocalittici e integrati, è esattamente quello che io rifiuto e rispetto alla quale io sostengo che bisogna fare il mestiere che ogni giornalista dovrebbe sempre fare, che è quello dell'osservatore critico, e che è un mestiere particolarmente inviso e sgradito a tutti quelli che sono presi in questa dinamica, che caratterizza da sempre l'apparizione delle tecnologie della comunicazione. È esattamente successo per internet 10 anni, voglio dire, noi abbiamo regolarmente da una parte quelli che, insomma, internet, le truffe, le carte di credito, la pedofilia, cioè internet come pozzo di ogni impietà umana, no? Che non vuol dire che non ci siano queste impietà, e dall'altra parte internet come un luogo meraviglioso, assoluto, i blog, la rete si autocorregge, la rete è un'entità mistica per alcuni grandi blog italiani, andateglielo a chiedere, la rete è un'entità mistica. Se tu dici che ci sono dei fenomeni, se tu dici per esempio una cosa che dovrebbe essere evidente a chiunque abbia un minimo di spirito di osservazione, cioè che per esempio Google ha dei meccanismi di rapporto con l'utente assolutamente opachi, sei un nemico. Quindi io rifiuto l'etichetta di apocalittico, io faccio informazione critica. Rispetto a Second Life sta accadendo esattamente la stessa cosa, con un aggravante che io prendo in parte su di me, cioè un aggravante che Second Life poi in realtà, cioè che io sostengo che per poter parlare bene di tecnologia bisogna conoscere e vivere le tecnologie, cioè usarle. Second Life, secondo me, di quelli che ne parlano, diciamo, facciamo fatto 100 quelli che ne parlano, 5 la usano. E devo dire che in questo caso anche io mi sento lievemente in difetto, perché per qualche motivo, pur essendomi iscritto, registrato, sia da casa, al lavoro, sono entrato, non devo dire che faccio fatica rispetto ad altri entusiasmi che ho avuto in passato per altre applicazioni, faccio fatica ad essere preso. Conosco tante altre persone, Fabio Metitieri, telematico storico, giornalista specializzato, è uno che credo non dorma più da alcuni mesi, no? E non voglio sapere cosa ci fa. Ecco, ora secondo me non sta succedendo niente di diverso a Second Life che questa parabola dell'apocalisse e dell'integrazione, rispetto alla che è tipica di quando non si conosce una cosa. Certo. Guardi, io sono Daniela Pollonio. Buonasera. E a me sembra stia accadendo una cosa diversa. Mentre all'inizio, negli anni 90, 94, 95, sono arrivati prima gli utenti e successivamente sono entrate le aziende su internet, io vedo che in Second Life sta accadendo esattamente il contrario. Ci stanno investendo tante aziende per entrare dentro questa realtà e non ci sono ancora gli utenti. Questa è la mia sensazione da colei che sono abbastanza d'accordo. Realizza questi oggetti, cioè che faceva siti web 10 anni fa e adesso invece sta provando a entrare in Second Life. La sensazione è questa, come se fossero più mature le aziende rispetto agli utenti, gli utilizzatori. Sì. Beh, forse a questo punto potrebbe essere interessante sentire il parere dell'imprenditore di Second Life che abbiamo in studio, Massimo Zito. Buonasera, Zambardino. Buonasera. Beh, riguardo questo discorso, a mio avviso siamo un attimo in disaccordo, nel senso che su Second Life le aziende sono arrivate perché hanno visto la possibilità di esporsi su una vetrina ad ampia visibilità. Questa vetrina ad ampia visibilità è stata fornita da un improvviso boom e sovrasposizione mediatica che è stata creata forse ad arte da molti giornali, compreso quello per cui scrive lei, e in questi ultimi mesi si è parlato tantissimo di Second Life, spesso a sproposito e molto spesso anche da parte di gente che forse non si è nemmeno iscritta, non si è neanche creata un account solo per sentito dire i racconti di qualcun altro. Il problema vero è che su Second Life gli utenti ce ne sono e ce ne sono tanti. Non a caso si può dire che rispetto all'orario italiano, dalle 7 di sera fino all'1 alle 2 di notte, siamo costantemente intorno ai 40.000 utenti loggati all'interno del, diciamo, del gioco. E in realtà quindi la gente c'è e sicuramente non si tratta di 40.000 aziende. Il problema è che molti di questi utenti, specialmente dal lato Italia, vengono attratti da quello che hanno letto, che hanno sentito sui nostri media, che gli dicono Second Life è l'Eldorado, andiamo a fare soldi. L'utente che entra su Second Life nei primi 10 minuti comincia a cercare lavoro. Questa è la cosa, a mio avviso, preoccupante, al di là di quelle che sono le mie esperienze. No, non Italia è sempre colpa di giornali. Vittorio, non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che comunque le persone, i non addetti ai lavori e coloro che non hanno una grande esperienza su internet, vengono informati dai media tradizionali. Da qui anche la nostra idea di... Ma anche da molti blog, eh? Sì. Sì, ma che i media informino in maniera anche entusiastica all'inizio, e secondo me troppo entusiastica, è ammissibile. Il problema qual è? È che, innanzitutto sulla questione dei numeri, io vorrei un po' eccepire, perché dipende dalla scala che noi assumiamo. Per esempio, se voi parlate in termini di utenza di un gioco, 40.000 sono una cifra. Se io dovessi mettermi dal punto di vista, diciamo, editoriale o per esempio della pubblicità, se io avessi un sito che fa 40.000 utenti avrei problemi a portarlo davanti all'investitore pubblicitario. Se posso permettermi, questi numeri sono emersi anche nella mattinata quando abbiamo registrato un'intervista con Carlo Formenti, che sentiremo tra poco, il quale appunto, citando anche i dati lui stesso da Gerosa all'interno del suo testo Second Life, dice appunto che rispetto ad altre piattaforme etichettabili come Web 2.0, come YouTube o lo stesso MySpace, i numeri che contraddistinguono gli utenti di Second Life sembrerebbero numeri di un prodotto di nicchia. Esatto. E non quindi... Però in internet tutto è nicchia. Cioè, voglio dire che se voi togliete i grandi portali, e per portali intendo anche cose che non dovrebbero essere chiamate portali, tipo MySpace, se togliete su scala italiana, nazionale, dopo i portali, i siti dei giornali online, poi tutto è nicchia. Quindi questo non mi scandalizza, non è un problema. Ora, cerchiamo di mettere a fuoco quello che vogliamo dirci su questa cosa. Cioè, io credo che il futuro di questa cosa qui sia quella di uscire dai suoi limiti attuali, cioè di un gioco proprietario. Perché poi, se permettete, Second Life realizza in un modo concreto un modello di esperienza personale che secondo me è profondamente legato all'esperienza internet, che è esattamente quello che fa paura per esempio a tutti i psicologi, i sociologi che ne scrivono. Si tratta di persone per le quali io non ho molta stima. C'è questa componente fantastica e di doppio mondo è dentro internet in modo costitutivo, perché voglio dire, le prime chat in cui i primi giochi in ambiente che carattere si facevano già negli anni 80. I MAD che ci raccontava Sherry Turkle. Esatto. Le chat in cui uno a 50 anni uomo dice io mi chiamo Trilli Campanellino e ho 18 anni risalgono agli anni 80. Quindi voglio dire che la componente fantastica appartiene all'esperienza internet. Allora, secondo me questo tipo di applicazione è destinato a crescere. Second Life o non Second Life? Non lo so, ma è destinato a crescere. Così come è destinata a crescere la conoscenza di queste cose. Questo avverrà solo quando l'umanità, i media, mettetela come volete, l'opinione pubblica riuscirà a liberarsi delle sue superstizioni e delle sue ossessioni. Cioè, a me, se io penso che in Second Life non ci va nessuno, è già nata la squadra di quelli che vogliono controllare le possibili oscenità, a me mi vengono i brividi. Voglio dire, se laddove, se voi pensate, questo è un paese, insieme purtroppo al rispetto purtroppo anche alla Gran Bretagna, paesi di grande tradizione liberale, dove viene sequestrato un gioco violentissimo, indubbiamente, ma proibito ai ragazzi, ai minori di 18 anni, c'è scritto sulla scatola, eppure lo sequestriamo. Cioè, fino a quando non supereremo questa fase delle ossessioni, non ci sarà una crescita di questa. Io ritengo che il fatto che le aziende, compresa la nostra, noi abbiamo fatto i rilanci su Second Life di nostre iniziative, oppure una guida ufficiale? Abbiamo fatto la guida ufficiale, ma no, la guida ufficiale è un'altra cosa, la guida ufficiale è un'iniziativa editoriale. No, l'editore quando mette in mente una cosa, no, fa un'operazione molto limpida, ti sto proponendo una cosa, te la compri, io faccio i soldi. Rispetto agli altri gruppi editoriali, tipo Libero, che è entrato con una sua rivista online, Libero SL, voi invece cosa pensate di fare? Noi credo che abbiamo fatto finora delle operazioni in occasione del lancio di alcuni prodotti, per esempio quella del Risorgimento. Ci stiamo un po' pensando, perché adesso non si offenda nessuno, se voi paragonate i nostri, cioè noi abbiamo bisogno un editore, non facciamo noi. Editore, allora, non so, Rizzoli, il Gruppo Espresso, deve fare delle cose che facciano dei grandi numeri, perché sennò con la pubblicità poi non combini niente. Cioè tu hai bisogno di fare un inventario di pubblicità che la gente veda. Onestamente, i numeri che voi facevate prima di Second Life, che sono numeri tutti tutto rispetto per un'applicazione di entertainment, di gioco, eccetera, sono di un ordine di grandezza inferiori a quelli dei giornali online. E voglio dire, noi, qualsiasi editore ha bisogno di fare quei numeri lì. Sì, posso interloquire un momento? Io posso pure. Mi scusi, volevo soltanto precisare a questo proposito che è vero che parliamo di 40.000 utenti loggati in ora di punta, è anche vero che c'è un notevole turnover, nel senso che questi 40.000 utenti nell'arco delle 6-7 ore, diciamo, della fascia di punta serale italiana, molto probabilmente sono 80-90.000, siamo d'accordo, siamo sempre molto al di sotto della visibilità che può avere un quotidiano online come Repubblica o il Corriere, ma sicuramente cominciano a essere dei numeri che quantomeno a qualcuno possono interessare. Certo. Non a caso abbiamo una serie di aziende che cercano di entrare su Second Life, magari. Sì, ma infatti torniamo al discorso mio, ossia stanno entrando prima le aziende della massa critica che giustifica l'entrata di un'azienda in certo. Ma a mio avviso Second Life stiamo vivendo un pochino una fase, come dire, di preludio a un fenomeno che rispecchierà sotto molti aspetti quello che è stato il boom di internet alla fine degli anni 90. E l'unica speranza è che non si crei pure la bolla, francamente, perché oggi come oggi è ancora uno strumento divertente dove forse qualcuno cerca di fare qualche soldo, ma la maggior parte degli utenti riescono a trarre i vantaggi e il piacere che si può avere da una chat tridimensionale che permette anche di levarsi alcune soddisfazioni come quelle di mettersi il vestito sfizioso, comprarsi la macchina ultimo modello Mercedes o Ferrari o Lamborghini o andare a ballare tutte le sere nei posti più incredibili. Dove non ti fanno entrare se vai tu davvero. Esattamente. Quindi la paura è che si crei una vera e propria bolla e questo possa portare a una grande esplosione del fenomeno iniziale e con le conseguenze che abbiamo avuto poi anche su internet. Allora, che ne dite se facciamo una pausa musicale? Mi sembra che abbiamo già introdotto un bel po' di argomenti, poi proveremo ad andare ancora un po' più a fondo. Allora, io devo dire una cosa, Zambardino, ho esitato a lungo prima di dedicare a Second Life una puntata di Proxy Bar, proprio perché questa trasmissione cerca un po' di esplorare gli aspetti di internet, contenuti e applicazioni che non sono fini a se stessi, o quantomeno dovrebbero invece arricchire la nostra vita reale. Second Life, secondo alcuni, è un arricchimento dell'esperienza umana, secondo altri invece tenderebbe a sostituire, quindi a svuotare la vita reale. Chi ha ragione? Cioè, siamo di nuovo agli apocalittici integrati. Non voglio metterla nel contesto di questa dicotomia. No, semplicemente... È chiaro che per me è un arricchimento, perché io ritengo che l'esperienza internet è un'esperienza positiva e in generale io ritengo che non si debba aver mai paura di esporre le persone, anche le persone piccole, cioè i figli. Cioè io per esempio i miei figli ho fatto tranquillamente fare fin da ragazzini qualsiasi esperienza di navigazione, di cose, cioè, dando alcuni criteri, no? E quindi l'importante è far crescere le persone esponendole alle cose, non chiudendole in un bunker. Allora, scusa, proviamo a lanciare una provocazione. Quando vado in giro in macchina nelle periferie di Roma e sono in un centro commerciale, una pompa di benzina, sì, questi non luoghi, luoghi di transito privi di identità, ho come il sospetto che in realtà Second Life nella vita reale sia già stata inventata ormai da una ventina d'anni e si trova fuori da internet. In realtà il mondo già sta cercando di togliere identità ai luoghi permettendo quasi l'illusione di una vita sgombrata da tutte le scorie. Incontriamo sconosciuti a cui confesseremmo qualsiasi cosa, esploriamo posti sempre nuovi, non ci mettiamo mai in gioco, i rapporti sono effimeri, evitiamo il confronto. In sostanza sono anni che il mondo reale ci educa a non assumerci le nostre responsabilità. Quindi si può dire che Second Life non è altro che una scorciatoia tecnologica in questa direzione? Forse, ma se fosse semplicemente il luogo della fantasia di cui da sempre l'umanità ha bisogno, cioè oggi si chiama Second Life. Avete presente una vecchia vignetta di Altan di tanti anni fa, dove a un certo punto c'è un padre che si avvicina al figlio, sta davanti al televisore e gli dice: sempre lì a rincoglionirti col televisore, con la televisione? E il bambino risponde: tutta invidia, perché te ti sei dovuto rincoglionire con la radio. Allora, la verità è che l'umanità ha bisogno di una sfera della fantasia, del pensiero, era la letteratura, è stato il videogioco, è stata la televisione, è stato il cinema, sempre sia benedetto, la più grande invenzione umana, e che oggi è Second Life, e che domani potrà essere, e semmai è aumentato il consumo di queste cose, cioè il ciclo di vita dei giochi e delle cose. E poi secondo me appartiene a internet, come dicevo, in modo costitutivo, che poi è successo di internet, ma perché, ecco, io per esempio sono perplesso e concordo con chi l'ha detto all'inizio, dal fatto che le aziende lo scoprano prima delle persone, perché a me sembra fisiologico che le aziende vadano dove c'è la gente e non viceversa. E questo, come dire, è perché è sano, perché è bello, perché è una tecnologia abilitante della fantasia. Io mi permetto di fare una precisazione a questo proposito. Allora, ok, Second Life come, appunto, potremmo dire aggregatore di fantasie, incubatore di fantasie, di immaginazione, però è anche vero che lei, sempre all'interno del suo blog, afferma che in qualche modo quelli di Second Life sono sogni che il denaro può comprare, sì, come se appunto l'immaginazione poi fosse una conseguenza del grande tasso di capitalismo virtuale che verte su questo mondo. Sì, perché io credo che poi il Second Life non sia altro che una versione, e sia una versione anche un pochino troppo commerciale. Per esempio, mi piacerebbe che qualcuno si inventasse un Second Life open source, dove per esempio il criterio, invece che essere una imitazione piuttosto pedissequa dell'economia, ma guardate che questi giochi sono sempre esistiti, voi siete giovani e non l'avete conosciuto, ma quando ero ragazzo esisteva il Monopoli. Il Monopoli è l'imprenditore immobiliare, il gioco dell'imprenditore immobiliare. Sì, ma lì non c'era il corrispettivo in euro o in lire. Qui adesso sì, se vuoi una casa, se però vuoi c'era una currency. C'era una currency che rimaneva fissa nel gioco, qui in realtà i soldi veri ce li stai mettendo, anche se sono, esatto, pochi. E perciò dico che ci vorrebbe un Second Life open source. Ma per certi versi, scusate, interrompo Daniela, rispetto ad altri mondi virtuali, anche questa era una cosa che era emersa nell'intervista anche con Formenti, per esempio World of Warcraft, che è considerato un videogame, anche qui attenzione con i termini, perché io ho fatto per esperienza personale, nella piccola osservazione partecipante che ho fatto all'interno di Second Life, andare a dire che si tratta di un gioco è il peggior insulto che uno possa fare alla community di Second Life, appunto. E comunque, al di là di questo, per un videogame come World of Warcraft, in cui si compra un pacchetto e non si può modificare, non si possono modificare i singoli aspetti dell'esperienza videoludica, invece in Second Life si può arrivare ad uno stile di esperienza quasi open source, nel senso che il fatto che Second Life ci metta così tanto materialmente ad ogni login a caricare il mondo è proprio dovuto al fatto che quello stesso mondo viene modificato incessantemente dai suoi utenti. La differenza è un'altra, che comunque quella rimane una piattaforma proprietaria della Linden. Quindi in qualche modo bisogna trovare un compromesso tra questi due aspetti. Ma non lo so, perché poi nulla ha mai retto in forma proprietaria in internet. Mo ci deve riuscire Second Life, non lo so. Ma posso dire che da quello che si legge su alcuni blog si parla di un rilascio open source della piattaforma di Second Life, con la possibilità anche di creare shard, quindi server non ufficiali ma collegati alla piattaforma centrale. Ma le regole chi le scrive? Questa è la domanda. Se anche con questo tipo è quello che stavo considerando, cioè se questa eventualità fosse reale, mi sembra di vedere una gran furbata dei Linden, ecco, che continueranno a incamerare e gestire senza prendersi più l'onere dello sviluppo, che sarà lasciato ai volontari, diciamo, agli entusiasti che creeranno i propri server che si collegheranno a questo enorme mondo. Va bene, allora io a questo punto, visto che abbiamo ancora una volta sottoposto il nostro ospite telefonico ad un lungo supplizio, un fuoco di file di domande, propongo di congedare Vittorio Zambardino, che ci ha fatto entrare anche in alcune logiche editoriali importanti, in alcuni meccanismi un po' dietro le quinte che forse soltanto magari una web radio come la nostra poteva azzardare ad affrontare. Lo ringraziamo per la sua pazienza, per la radio. grazie infinite, noi andiamo avanti dopo una breve... Ci venga a trovare su Second Life a questo punto. D'accordo. Posso fare una confessione? Sì. Certo. Allora, io mi sono piantato su Second Life, perché siccome io sono uno che rifiuta le regole, non mi piace il processo di apprendimento iniziale. Può saltarlo, io sono riuscita a saltarlo. Ecco, io sono ancora lì, perché mi fa girare le balle che lì voglia farmi scaricare una versione, un Macintosh a casa, di QuickTime aggiornata. La versione di QuickTime ce l'ho io, tu non devi intrigare, allora siamo lì e io dico non vado avanti. Beh, è un integralista tecnologico allora lei, diciamo. No, sono un rompiballe tecnologico come nella vita. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Sei su Radio Imago. Oh yeah. Entra nel sogno, ascolta l'immagine. Oh yeah. Ritorniamo e introduciamo a questo punto il secondo ospite della giornata, è il professor Carlo Formenti, esperto di nuovi media, che abbiamo intervistato questa mattina, e proponiamo ora la registrazione. Diamo il benvenuto a Carlo Formenti, collaboratore del Corriere della Sera e docente di storia e tecnica dei nuovi media presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Lecce. Buongiorno a voi. Buongiorno. Il professor Formenti da tempo si occupa di tematiche legate ai nuovi media, sia da un punto di vista economico, sociale, culturale e politico. È autore di testi di grande successo, citiamo soltanto gli ultimi, come Incantati dalla Rete, Mercanti di Futuro e Not Economy. Allora, professore, la chiamiamo in qualità di esperto, perché la nostra web radio è da pochissime settimane sbarcata su Second Life. Auguri, allora. E quindi ci sembrava giusto, appunto, affrontare questo fenomeno di gran voga in questo periodo. Professore, possiamo affermare che la prima fase di Second Life sia ormai conclusa? Che cosa significa questo? Alcune recenti indagini registrano un rallentamento degli iniziali ritmi di crescita e dell'effettiva presenza online negli utenti, in particolar modo per ciò che riguarda gli utenti statunitensi. Può da esperto dirci davvero qual è lo stato di salute di Second Life in questa fase? Beh, parlare di stato di salute è forse un po' complicato. Diciamo che probabilmente è in fase, per fortuna aggiungerei, di esaurimento la ventilazione mediatica del fenomeno Second Life, come fenomeno modaiolo per l'appunto, no? Che come sempre è avvenuto dall'inizio della storia di internet, o meglio del web, dall'inizio degli anni 90 ad oggi, è sempre stato letto dai mezzi di comunicazione di massa tradizionali come evento fra virgolette di colore, con assai poca capacità poi di approfondire gli aspetti culturali, sociali ed economici del fenomeno. La prima cosa da dire è che probabilmente il successo di Second Life è stato abbastanza enfatizzato, nel senso che parlare di 7 milioni o quello che sono di cittadini di questo mondo virtuale, a parte che è improprio, perché come spiega molto bene nel suo recente libro uscito da Meltemi Gerosa, che è un po' il massimo esperto italiano di mondi virtuali, certo. A questi 7 milioni corrispondono dei frequentatori abituali, un numero di frequentatori abituali ed effettivi molto più basso, cioè esatto. 7 milioni ci si arriva calcolando tutti quelli che hanno messo il naso dentro, diciamo, per curiosità e annusare questo mondo virtuale, poi magari non ci sono mai più tornati o esatto. Sono tornati poche volte. Detto questo, comunque, anche se fossero tutti e 7 milioni dei veri utenti del network, sarebbero comunque un numero molto basso se paragonato a social network di altro tipo come YouTube piuttosto che MySpace, certo. Facebook, eccetera, dove parliamo di centinaia di milioni di utenti, quindi siamo su un ordine di grandezza che ci dice immediatamente come si sia di fronte a un fenomeno di nicchia in qualche modo. Un altro equivoco che probabilmente è importante sbarazzare, diciamo, togliere di mezzo, è secondo me il fatto che molti hanno parlato di Second Life in particolare e in generale della grafica 3D e degli ambienti in 3D come della nuova fase evolutiva del web. Allora, questo secondo me è assolutamente scorretto, nel senso che ormai è praticamente impossibile definire una fase evolutiva del web, per tacere di internet, no? Di una piattaforma tecnologica che supporta ormai decine se non centinaia di media diversi, esatto. No? Ce n'è di tutto, da uno a uno, da uno a molti, da molti a molti, posta elettronica, telefono via internet, internet TV, eccetera, eccetera. Quindi la rete supporta una quantità di modi di comunicazione sia simili al broadcast tradizionale, sia innovativi, sia invece proprio di comunicazione interpersonale crescente. Questo è uno dei tanti, certo. Non può essere immaginato come il futuro del web, perché chi dice così dimostra di non capire nulla dei nuovi media del web in generale. E secondo me l'aspetto, azzardo una cosa che naturalmente, non essendo un esperto specificamente, non avendo ancora, mi piacerebbe farlo, ma non so se avrò modo di farlo, avviato delle ricerche specifiche sul campo rispetto a Second Life, può essere anche un errore, però la mia sensazione è che tutti gli aspetti che eccitano, diciamo, i media, e quindi il sesso virtuale, la prostituzione, il gioco d'azzardo, gli aspetti, diciamo, o di sperimentazione di identità, no? Riprendendo un po' le cose che la Tark scriveva anni fa a proposito delle chat, dei mood, eccetera, sia forse l'aspetto meno interessante della faccenda. La cosa invece che mi sembra che stia crescendo, e lì veramente c'è da ragionarci sopra, capire come funziona, perché, con chi, eccetera, eccetera, è l'aspetto economico, secondo esatto. me. Cioè, siamo di fronte a una situazione che sta crescendo obiettivamente, esatto. aggiungendo numeri interessanti, con cose diverse, perché abbiamo le grandi imprese che ci vanno, IBM in primis, che è quella che ci crede e ci investe di più, mi pare, in questo momento, ma però anche le agenzie di pubblicità, i partiti, le associazioni, i no profit e i singoli professionisti, soprattutto nel campo della classe creativa, come direbbe Florida, quindi designer, architetti, eccetera, che vanno a testare gusti, trend, a produrre oggetti che probabilmente possono essere prototipi poi di cose che verranno prodotte anche nel mondo offline. Una sorta di coolanting virtuale, quindi. Esattamente. Quindi, insomma, questo mi sembra l'aspetto decisamente più interessante e suscettibile di ulteriori evoluzioni, perché credo che sia anche importante non dimenticare che dal punto di vista tecnologico Second Life è ancora in fase iniziale, certo. Cioè ancora pensiamo solo a che salto enorme di modalità di fruizione ci sarà quando si passerà al dialogo a voce, insomma, che è annunciato in tempi non lunghissimi. Certo, una sorta di VoIP integrato. Certo, questo vorrebbe dire, per esempio, anche dal punto di vista proprio, già ci sono state alcune piccole ricerche, adesso non mi ricordo dove ho letto la notizia e poi non ho avuto tempo di andarmene anche a scaricare, dove alcuni psicologi o americani mettevano in evidenza come l'interazione fra gli avatar curiosamente fosse molto simile all'interazione che si ha fra individui che dialogano faccia a faccia. Per esempio, erano verificate alcune analisi di Erwin Goffman rispetto al rispetto della distanza fisica, la prossemica goffmaniana, come aggressività, eccetera. Se si aggiunge la voce e quindi certo. aumenta l'effetto di realtà e di telepresenza, probabilmente andremo incontro a qualcosa di molto più, fra virgolette, paradossalmente normalizzato. Certo. Introdurre altre due domande. Lei citava di Second Life l'aspetto economico. Si parla tanto di marketing virale, di modelli di business applicati a questa piattaforma. Se abbiamo detto che la prima fase di Second Life ormai è conclusa, all'interno di questa prima fase abbiamo assistito un po' alla guerra dei marchi e delle compagnie per arrivare primi, nel dire noi abbiamo piazzato la nostra bandierina, adesso aspettiamo la contromossa dei nostri competitor. Ora che questa prima fase è terminata, quali potrebbero essere i nuovi scenari di marketing? Ma qui è un po' difficile capire, cioè io ho la sensazione che appunto siamo un po', non siamo veramente ancora usciti da una situazione in cui si pianta le bandierine, cioè di presenza dei marchi. Oltretutto l'unico modo di fare pubblicità, visto che non si può fare advertising in senso proprio all'interno del mondo virtuale, è paradossalmente il veicolo della pubblicità, l'architettura, fra virgolette, cioè la presenza fisica, la costruzione di luoghi, oggetti, abitazioni, edifici pubblici, eccetera, che sono il supporto della presenza di questi marchi. Mi pare che non si sia ancora, a parte i discorsi che facevamo prima, che si riferiscono soprattutto a sperimentazioni di studi professionali o di singoli professionisti, trovata, un termine non mi piace per niente, però diciamo, per usare un termine abusato, una killer application, certo. dal punto di vista del modello di business. Cioè, oggi a livello web, no, siamo ormai in una fase di transizione avanzatissima a questa modalità di web 2.0 che ha il suo punto di riferimento nel modello di business di Google, tanto per parlarci chiaro, cioè i grandi aggregatori che ormai stanno andando al di là, no, è una fase 2 rispetto al discorso sull'accesso che aveva fatto Rifkin, certo, ormai 7-8 anni fa. Oggi ancora abbiamo la verifica di questa caduta di centralità della proprietà, ivi compresa la proprietà intellettuale. Il progetto è quello di mettere al lavoro l'intelligenza collettiva gratuitamente, parentesi, convocandola, no, a partecipare a questi progetti di coproduzione collettiva attraverso le varie forme di social network, attraverso il tracciamento dei comportamenti e dei dati in rete, eccetera. Second Life non è ancora chiaro dove potrebbe andare dentro questa cornice più generale evolutiva della net economy. Forse manca ancora, se mai ci sarà, perché può anche darsi che resti invece un grande laboratorio di sperimentazione di differenti progetti, sì. Non è detto che si unifichi al di sotto di un'unica cornice o di un unico modello di business. Poi, non lo so, su questo non azzarderei grandi previsioni allo stato dei fatti. Anche perché Second Life, a mio parere, vive di un paradosso interessante, nel senso che a differenza di altri mondi virtuali, come ad esempio quello di World of Warcraft, Second Life appare essere una piattaforma open source, mettiamola così, in cui gli utenti appunto hanno la possibilità di modificare vari aspetti della loro esperienza virtuale. A un certo punto di vista si potrebbe dire che ha alcune analogie formali, intendo, non di contenuto, con il primo modello di business di eBay, insomma, certo. Così come eBay di fatto non vende niente, ma costruisce, come dire, il marchio e le fonti di profitto e di reddito a partire dalla messa a disposizione di un ambiente in cui poi ad agire sono gli utenti, esatto, no? In quel caso attraverso le aste online, l'autovalutazione incrociata fra venditori e acquirenti, eccetera, eccetera. E qui sembra un po' funzionare con la stessa logica, cioè la scelta che è stata fatta dei Linden Lab di costruire un luogo dove la gente poi può progettare, fare, fabbricare, inventare, creare, mantenendo poi il controllo della proprietà intellettuale sui prodotti della propria creatività e quindi avendo, come dire, un reddito derivato, fra virgolette, da queste attività che si svolgono invece autonomamente, indipendentemente nella cornice messa a disposizione. Questo è interessante. Pur essendo appunto una piattaforma open source, rimane comunque una piattaforma proprietaria ed è significativo il fatto che stiano nascendo altre piattaforme proprietarie dello stesso tipo, come per esempio quella che sta realizzando la Sony per gli utenti della nuova PlayStation. Quindi, secondo lei, c'è il rischio nel medio-lungo termine di migrazioni di utenti di Second Life verso altre piattaforme dello stesso genere, magari appunto non proprietarie? Questo può sempre avvenire, cioè non esiste, una delle caratteristiche fondamentali del web è appunto che i monopoli si costruiscono con grandissima rapidità e con altrettanta rapidità però si possono anche disfare. Pensiamo appunto al ruolo che ha avuto per un certo periodo Netscape per i browser, poi fatta fuori in modo non molto elegante, bisogna dire, da Microsoft. La stessa Microsoft che oggi si vede, vede minacciata la sua posizione inaspettatamente da un concorrente come Google, che non dovrebbe centrare nulla perché produce tutt'altro, non fa software, o meglio adesso lo farà anche, ma insomma, quindi c'è la possibilità costante per qualsiasi tecnologia, ambiente, servizio che viene costruito e inventato all'interno dell'ambiente di internet di venire attaccato, sostituito da soluzioni che magari non sono neanche nello stesso ambito, ma possono spostare l'attenzione e quindi anche la presenza di masse considerevoli di utenti da un punto all'altro. La stessa MySpace, per esempio, in questo momento subisce la concorrenza di Facebook, che prima era un network di nicchia dedicato ai soli studenti, no? Certo. Quindi questa sfida è sempre presente. Forse, ecco, magari qualche eccezione può anche essere fatta se uno pensa a una situazione come quella di Amazon, che però è un po' particolare, perché Amazon in fondo può essere definita in qualche modo un'azienda click and mortar, cioè perché poi di fatto vende oggetti fisici alla fine, no? Cioè, certo. Ha bisogno dei suoi bravi magazzini, ha la logistica che è un punto strategico di tutto il modello di business, eccetera, eccetera, quindi lì c'è una posizione monopolistica costruita molto rapidamente attraverso le dinamiche del web, e però effettivamente chi volesse entrare in concorrenza con Amazon su quel terreno avrebbe dei problemi molto grossi, vita perché dura. Ha bisogno di investimenti pesanti, c'è una soglia di ingresso, diciamo, certo, significativa, mentre se pensiamo invece a una cosa che è nata da zero, poi bisogna vedere se è un fuoco di paglia, se avrà uno sviluppo come Twitter, per esempio, che esiste da pochi mesi, sono ancora, credo, 7-8 dipendenti di questa Obvious, che è una piccola startup di San Francisco. Lì appunto ancora basta l'idea, diciamo così, è un venture capitalist che ti dà i soldi per partire, mentre invece non tutto è così, ma insomma rischio di essere fatti fuori da qualcuno che da un ultimo venuto non c'è sempre per tutti. Certo, senta, io vorrei concludere questa interessante intervista con un po' di autoreferenzialità, nel senso che vorrei chiedere il suo parere sull'entrata di una web radio come la nostra all'interno di Second Life. Possiamo dire, per citare Bolter e Grusin, che questo potrebbe rappresentare un felice esperimento di remediation? Senz'altro lo è, per definizione, cioè è comunque un esperimento di remediation, è senz'altro, che poi sia felice ve lo auguro con tutto il cuore, e questo dipenderà dalla vostra capacità di inventarvi qualcosa che funziona in quell'ambiente, che riesce a sposare appunto ambienti virtuali e radio in un modo creativo, innovativo, e che quindi capace di catturare poi una audience e comunque un pubblico di riferimento interessante che collabori in qualche modo direttamente e indirettamente al vostro progetto. Comunque si colloca senz'altro in quella dimensione lì. Perfetto. Professore, io la ringrazio a nome di tutta la radio e la saluto. Allora, saluti a voi e ancora auguri, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci. Allora, abbiamo sentito anche il punto di vista di Formenti, nuovi spunti molto interessanti su Second Life. A questo punto mi sto reincuriosendo anch'io, che avevo fatto una capatina lì dentro parecchi mesi fa, e adesso forse è diventato anche più interessante da esplorare. È bella Proxy Bar perché ci fa ricredere sulle nostre posizioni. Ci hai fatto caso? Io su Twitter, tu su Second Life, chissà gli altri che... Persino Attilio ho sentito durante una pausa molto brevemente esprimersi più positivamente su Second Life. Daniela, è corretto prevedere, come fa qualcuno forse preso da qualche entusiasmo di troppo, che Second Life si stia candidando ad essere proprio un'interfaccia al web concorrenziale rispetto al modo di navigare tradizionale, oppure il fatto di somigliare di più all'esperienza reale è in realtà un ostacolo in questa prospettiva? Io ritengo che ci siano dei limiti fisici e tecnici su Second Life al momento attuale, e non penso che potranno mai sostituire il classico browser per la navigazione di un sito. Certo che se noi creiamo un sito in tre dimensioni, da un sito in flash piuttosto che in realtà virtuali, se ne parlava tanto, sì, tempo fa. C'era il VRML, no? Una decina d'anni fa, esatto. Poi è morto. Tutti questi strumenti potrebbero essere riesumati e messi dentro, ma comunque non ti dà l'immediatezza dell'informazione, cioè cosa ci devi fare con il web? C'è una cosa che mi ha colpito, lo voglio chiedere a Massimo, che insomma ha studiato le land, come si creano gli oggetti, eccetera. In realtà qualsiasi oggetto di design creato negli ultimi 20 anni esiste come file su un sistema di CAD, no? Di computer aided design, e ormai esistono dei traduttori che possono trasformare agevolmente, automaticamente, questa immensa library di oggetti già in oggetti che si possono trovare in automatico su Second Life. Cioè in realtà Second Life già può ospitare una quantità immensa di oggetti, di strumenti, magari non concepiti per interagire con un mondo virtuale, però la base c'è. Beh, posso concordare abbastanza parzialmente con questa affermazione, nel senso che per quello che vedo io oggi su Second Life l'unico limite è la fantasia. L'ho già sentita però questa. Chi è dotato di abbastanza fantasia e voglia può sicuramente riuscire a realizzare quasi qualsiasi cosa. Si possono costruire oggetti, si possono animare questi oggetti, dargli funzionalità. Pochi giorni fa ho trovato un posto dove vendevano riproduzioni di cani spettacolari. Ho comprato un Doberman che è identico a un Doberman vero. Per fortuna non morde, è estremamente realistico. È solo una questione di script, basta modificare lo script e io ti faccio mordere. Ecco, allora, visto che mi stai provocando, Daniela, Radio Mago, abbiamo accennato rapidamente, esiste già su Second Life. Grazie, diciamo così, anche a Massimo Zito, poi ci racconterà esattamente che cosa fa lui. Volevo chiederti, ma che cosa succederà in questa land di Radio da Mago? Da quando tu cerchi di farmi dire anticipazioni tecnologiche in diretta? No, però io ho visto che c'è un anfiteatro e questo mi fa pensare che ci saranno degli eventi, forse dei concerti. Sì, certamente. Notte in Rete sarà ogni lunedì, probabilmente, se l'ospite ci dà la liberatoria, perché certo, ovviamente hai bisogno delle autorizzazioni. Trasferiremo quello che sta succedendo qui in diretta anche sulla land di Massimo Mediterraneo, dove c'è il nostro anfiteatro e dove noi, le persone, potranno seguire in diretta, ecco, l'evento. E bisogna ricordare che la cosiddetta slurl, cioè slurl, l'indirizzo su Second Life dove si trova Radio Imago, si può trovare facilmente sul sito www.radiomago.net. E infine, fatemi togliere questa soddisfazione, voglio capire esattamente, Massimo, com'è nata questa tua idea di diventare imprenditore? Che cosa fai esattamente per Second Life? Adesso non esageriamo, Second Life nasce come un'alternativa. Io fino a poco tempo fa giocavo ad altri giochi in rete, veri e propri giochi con finalità, quindi posti tipo World of Warcraft o Dark Age of Camelot, dove comunque c'erano delle regole e delle finalità per il singolo giocatore e degli obiettivi da raggiungere. Cioè, un giorno ho scoperto Second Life, ho cominciato a guardarmi intorno e mi è piaciuto molto quello che offriva, ovvero la possibilità che non trovi in quest'altro tipo di giochi di interagire direttamente con l'ambiente e modificarlo a tua immagine e somiglianza, se vogliamo. Da lì è nata l'idea di leggendo il gioco, io ho visto che era una chat evoluta, tridimensionale, quindi con la possibilità un social network un social network però molto più evoluto, che ti dava la possibilità comunque di mediare la tua interazione con le altre persone attraverso una serie di strumenti che non fossero il semplice testo scritto e anche magari il vedere l'avatar fissa della persona sul monitor. Da lì è nata l'idea di divertirmi offrendo qualche cosa con la mia socia e compagna Malegre. Abbiamo creato questa land dove chi vuole venire la sera trova animazione, trova feste, trova concorsi, si può ballare, giocare a vari giochi, anche vincere soldi, perché mettiamo questi soldi in palio attraverso i nostri inserzionisti, eccetera. Abbiamo anche noi i nostri negozietti dove qualcuno vende i suoi oggetti. Il nostro fiore all'occhiello è Radio Mago, comunque, che ci dà qualche cosa di più. Radio Mago che adesso abbiamo portato anche sulla città di Venezia e che presto ci farà una bellissima sorpresa in quel posto. Benissimo, allora io vedo che scoccano in questo momento le ore 20, siamo andati un po' lunghi, ma la puntata lo meritava. Noi non l'abbiamo detto, ma è saltata anche la rubrica Guru Meditation, perché c'era veramente tanto da dire. Sì, c'erano molti ospiti, studio affollato, registrazioni, mattiniere e così via. Io vorrei ringraziare non solo ancora una volta Massimo Zito e magari Vittorio Zambardino se ci sta ancora ascoltando, ma soprattutto Stefano per il lavoro titanico che ha fatto in questa settimana. Non esageriamo. Abbiamo organizzare tutta questa puntata. Io credo che d'ora in poi, quando Stefano prepara le puntate, dovremo prevedere un'ora e mezza. Perché... un volume 2 alla Tarantino. Va bene, noi ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie ancora per l'ascolto. A presto. Arrivederci. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.